Opla! B-Dop, chiama due. Mi candiderei come presidente, nascevo in America, ero Franco West. Uso il sesso come un titalino, questo si fa il tipo mentre penso a me. Tutto duro come un palo, chiedi cosa penso mentre chiavo. Penso pupo con due fiche in mano, sono così fiero di essere italiano. Esce il tuo singolo e ronfro, sei la strada del Real Tom. Dice che vuole il ragazzo sporco, lo sbatto col cazzo che sa di tonno. Questo merda penso vedi, non c'è un nemico tra i piedi. Entro in ufficio coi debiti, esco e non so come spenderli. Fanculo a Marco Menco. Fuck, mi sta sui coglioni la scena rap. Saperlo prima di fare tratto, restavo in cantina a fumare crack. Il più politically scorretto, non ho scelto minchia sopra il rossetto. Che sciocco che mi fai sentire il pezzo, nel prossimo zitto che suona meglio. Stiamo mentre sto cagando, c'è l'ultimo pezzo di anche questo nel tuo anno, bravo. Aspetta che parte l'applauso. Più italiano dell'Italia stessa, più cieco di Russia, Slovacchia e Cecchia. Fossi un falegname con moglie, lo stesso mi fotte una serie. Sono duro come se mi chiamassi Giulio Nicolai. Nicolai, tre strofe. Con quella faccia da schiaffi, dove vai? Dove vai? Bevo la vodka, ballo la polca. Bevo la vodka, guardami, ballo la polca. Bevo la vodka, guardami, ballo la polca. Bevo la vodka, guardami, ballo la polca. Bevo la vodka, guardami, ballo la polca. Guarda che porca, bacio mami che guapa, bacio mani a quel papa, vuole che la pradapa. Arrivo in gola la iatro come un otto la ringoiatra. PSG Paris Saint Germain, PSG Pippo Atuca. Stai con un cesso che fai, se fai il cesso ti suonerei come un synth. Passion fru, era per piscio un cu, e frate sono un hustler come Larry Flint. Cocaino come Danko, stendo stando spendo e spando. A sti babbi di minchia tolgo le catene alla jungle, king of the jungle. Da quanto schifo fai Spotify mi dovrebbe un bel risarcimento. Scappo che è finito il tempo, un importantissimo appuntamento. Siete dei peluche, sono Jim Belushi, nelle sbiello russa con la miele in pussi. Per la gaffi resto in zona rosa sempre, per i soldi passo in zona verde, sì. Bitch, la sua figa sa del mio cazzo, frate, come il vino quando sa di tappo. La pussy non la vedi manco, fra un pelo se tanto come il porno giappo. Fanno i fighi solo qui compari, perché in branco stanno solo i cani. Quanto scopa ernia sopra la Treccani, sta sotto la voce, proverbi italiani. Non andavo a scuola ma la nave scuola, è lì che io mi divertivo. Il tuo disco, Dio mio che fastidio, mi chiedo perché tu non abbia un sussidio. Cambio in ogni pezzo, che impressione, sembra che c'ho dentro due persone. Lei è fan di ogni mia canzone, le dedico acqua calda col cidone. Roba da manette, due tette perfette, capezzoli duri, pistacchio di Bronte. Chiederò ai rapper come ci si sente ad avere per sempre questo cazzo in fronte. Ora divertitevi voi stronzi, quando torno poi facciamo i conti. Ti tappo la bocca con quei finti soldi, stai fermo a guardare perché mica colli. Sono duro come se mi chiamassi Giulio Nicolai. Nicolai, tre strofe. Con quella faccia da schiaffi, dove vai? Dove vai? Bevo la vodka, ballo la polca. Polka!